Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Coraggio, abbiate costanza nell'accettare i cambiamenti, nel mutare le vostre abitudini. Qualcuno non mi ha mai sentito a quest'ora. Qualcun altro sta scrivendo SMS alla radio perché vuole che si parli ancora dei problemi del menisco, quanto faccia male schioccare le dita, o dell'IVA al 21%. Sono i cascami delle trasmissioni precedenti. Il pubblico della radio si sta lentamente abituando a un cambiamento. È un cambiamento che io sia a quest'ora. Qualcuno mi riconosce, mi ricorda, avrà modo di inveire o di adulare come sempre è stato fatto. Altri mi sentono per la prima volta. Perché parlo di cronache meridiane? Perché questo è fatalmente il momento di distacco tra la prima metà della giornata e la seconda metà della giornata. Era un momento che gli antichi temevano molto, perché si scatenano i demoni meridiani. Sono i demoni della tentazione, sono i demoni che portano verso l'accidia, verso l'addormentarsi, verso l'abbandonare lo stato di veglia. E io avrò magari l'intenzione, la presunzione di cercare di risvegliarvi su piccoli segnali di mutazione della vostra esistenza. Abituatevi a mutare. 800 24 0024. Ciao! Nella rubrica Più belle con Photoshop vi svelo alcuni dei trucchetti che utilizzo per migliorare le mie fotografie. Sono semplicissimi, serve solamente Photoshop e basta. Benvenute su un nuovo episodio di Più belle con Photoshop. Lo faccio molto palesemente, in maniera che possiate rendervi conto di quanto le modelle siano artefatte sui giornali. In questo tutorial vorrei spiegare come è possibile aumentare leggermente le dimensioni del seno, ridurre un po' i fianchi, aggiustare un po', insomma, il fisico a questa modella che speriamo non si arrabbi. È chiaro che non tutti sapranno cosa sia Photoshop, è un programma di fotoritocco, è un programma molto specializzato, fino a qualche anno fa lo usavano soltanto i grafici. Oggi Photoshop è il simbolo del cambiamento, Photoshop è quel sistema che rende belle le nostre immagini. Molte delle persone che mi ascolteranno avranno un profilo Facebook, ameranno esporsi sui social network, ci terranno ad essere belli e belle e troveranno la migliore delle loro foto, la migliore delle loro inquadrature, il migliore dei loro punti di vista. Chiaramente bisogna presentarsi belli nella nostra fase migliore, però guardate, c'è un grosso paradosso, un paradosso legato all'attualità, alla contemporaneità. In questo momento il nostro paese è in grande apprensione, è in apprensione per una notevole e drammatica crisi politica. Qual è il segno, la cifra di distinzione di questa crisi politica? È determinata da una sorta di glorificazione della mummificazione, dell'immagine esteriore. Tutto nasce da un video e tutto nasce dall'idea che l'immagine conti, che l'eterna giovinezza conti, che non si lasci mai il passo. Beh, tutto questo determina, nello stesso giorno in cui su di questo stiamo ragionando, su un parlamentare, un deputato piemontese, Luigi Bobba, che fa una domanda che apparentemente può sembrare banale, può sembrare del tutto superficiale, ma invece è profondamente significativa del momento che stiamo attraversando. Chiede che le pubblicità ritoccate con Photoshop, quindi con questo programma di fotoritocco, debbano scrivere sotto come chiarezza verso il pubblico che le guarda: questa immagine è stata ritoccata, altrimenti propone una grave sanzione. E questo ha un suo precedente nel Regno Unito qualche tempo fa, comitato di garanzia delle pubblicità è stata censurata la pubblicità di una bella cremina nota, un nome notissimo, che faccia belle le signore. Perché? Perché tra il prima e il dopo era palesemente troppo toccato da Photoshop, quindi era una pubblicità del tutto illusoria. Ma questo vale in realtà per ogni prodotto, per ogni essere umano. E guardate caso, proprio è la politica che fa questo tipo di domanda, quando la politica nelle sue rappresentazioni iconografiche, avete mai visto i cartelli elettorali, i santini dei politici? Beh, sembrano sempre che abbiano 20 anni meno. C'è stata una notissima campagna elettorale recente dell'onorevole Giorgia Meloni che, ahimè, forzò un po' troppo la mano su Photoshop e sembrava la nipote di sua figlia. Luigi Bobba, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Onorevole Luigi Bobba, questa mattina abbiamo letto sulle agenzie e sui primi siti internet la sua proposta. Vediamo se ce la può dettagliare. Intanto il pubblico può chiamare 800 24 0024. Pensate che ci sia un obbligo ad essere belli, ad essere restaurati, o vi accontentate di essere per quello che siete? Qual è stato il motivo che l'ha spinta a fare questa proposta? Ma è duplice. Da un lato abbiamo preso spunto da proposte simili che, come già lei ricordava, non solo in Inghilterra ma anche In Francia o anche negli Stati Uniti c'è un'apposita campagna che tende a introdurre appunto una norma perché le immagini ritoccate siano, diciamo, indicate, non siano, diciamo, lasciate come se fossero vere, no? Fondamentalmente ci ponevamo due obiettivi. Un obiettivo è di tutela del consumatore perché appunto Ma non secondo ci lei sa il siano. consumatore che tutte le immagini che vengono presentate dalla pubblicità, ma anche, diciamolo, le ufficiali immagini della politica sono ritoccate, non sono loro, è un'altra cosa, è un'illusione, è una mummificazione digitale, della fattezza umana. Sì, diciamo, noi diciamo che quelle immagini sono ritoccate in modo tale da alterare la realtà e di fatto mettono in atto un messaggio di tipo fraudolento, no? Perché poi il decreto legislativo che si va a modificare con questa norma è dedicato a, come diciamo, titolo, la pubblicità ingannevole. Quindi Senta, noi onorevole, ma aggiungiamo. la sua foto sulla navicella è stata ritoccata? È, diciamo, il grande librone con tutte le biografie e le foto dei parlamentari. È stata ritoccata o è tale quale come lei è fatto da e naturalmente deteriorato dal corso della natura? No, no, è tale quale, anche perché vengono fatte dagli uffici della Camera quando inizia la legislatura e vengono messe tale e quale, non è che, come dire, ciascuno consegna una foto magari ritoccata, quindi Però è le foto assolutamente delle veritiera. campagne elettorali sono tutte ritoccate, sono a volte ridicole, capelli tinti, guance ritirate su, occhi cambiati, cioè in effetti è tutto un fotoritocco. Sì, questo è vero e credo che anche questo aspetto debba essere considerato nel momento in cui si propone una norma di questo genere che ha anche come obiettivo di tutelare in particolare i più giovani, perché, come dire, un'immagine del corpo così perfetto possono creare, specialmente negli adolescenti più giovani, diciamo, anziché un'accettazione di sé dei propri limiti, quasi Beh, in effetti un'adeguanza però, dei scusi, modelli onorevole, impossibili. Prego. nell'immagine esteriore della politica che ha la sua importanza, in questo momento in particolare, abbiamo la grande presa di posizione dal punto di vista mummificato nei confronti del punto di vista magari dei belli, carini e giovani, quindi diciamo l'artefazione ha un suo senso, sono proprio gli anziani ad essere tutelati da Photoshop, non tanto i giovani. Sì, però direi che soprattutto per quanto riguarda, diciamo, i più giovani, almeno questa proposta aveva l'intento, tant'è che in altri paesi è stata proprio vietata la possibilità di utilizzare immagini Fermo un attimo, di onorevole. ciò. Maurizio, buongiorno. Prima telefonata 800 24 0024. Vediamo se riuscite a seguirci a tempo reale. Maurizio. Sì, buongiorno. Allora io premetto che condivido il fatto che un aspetto piacevole sia importante, che l'immagine sia importante, ma sono d'accordo con l'onorevole che chiede che venga evidenziata se una foto è stata ritoccata o meno, perché la ritengo una forma di menzogna. Però guardi Maurizio, se noi impugniamo la verità iconografica nei confronti della menzogna, chiude la televisione, chiude la pubblicità, chiude tutto ciò che è rappresentazione. Lei ha mai visto un personaggio televisivo al naturale? Ha mai visto una diva della televisione che passa per grandissima gnocca a fare la spesa la mattina? È Sembra una sorta vero. di fantasma putrefatto, le assicuro. A me è così. Sì, no, lei ha ragione, ho assistito purtroppo a queste trasformazioni. Come mai ha assistito lei? Perché cosa fa nella vita? Perché no, io faccio l'immobiliarista, ma in passato ho avuto modo di frequentare il mondo della moda e lì certamente è come dire il trionfo, no, di questa menzogna. Però in quel momento, legato appunto, che ne so, a una sfilata, arrivo a comprenderlo. Però lei, Maurizio, come le persone che ascoltano, mi daranno atto del fatto che persone che per mestiere rappresentano il palcoscenico e quindi devono essere belle, devono rappresentare qualcosa che non sono, perché sono attori, sono personaggi di spettacolo di pubblico, hanno tutto il diritto, ma quando poi sono esseri quotidiani o rappresentanti degli esseri quotidiani come i politici, l'artefazione che va naturalmente come tecnica ormai data per scontata fa pensare. Onorevole Bobba, ma vale anche per il Cerone, vale anche per il trucco, cioè alcuni politici No. dovrebbero portare sotto una scritta: mi sono truccato, mi sono tinto i capelli. Tutti i maschi stingono i capelli a Montecitorio, su quasi tutti. No, io no, intanto, ma noi parliamo di immagini ritoccate che alterano la realtà e pongono in essere dei messaggi fraudolenti. Ma vuole mettere un mio rappresentante, diciamo, una persona che mi rappresenta in Parlamento, se altera la sua immagine fisica, mi illude, non è la persona che io volevo, è altrettanto illusorio. Non potrebbe estendere la sua proposta anche all'artefazione concreta e reale delle facce dei politici? Diciamo che qui la relazione era con la vendita di prodotti commerciali, diciamo, quindi il rapporto di alterazione della realtà era finalizzato, diciamo così, alla vendita di un prodotto. Questa era, quindi esclude a priori che la politica sia una scelta commerciale, ecco, questo è il sottotesto. Non dovrebbe esserlo, diciamo, almeno in linea di principio. Emiliano, buongiorno. Gianluca, ciao, buongiorno, sì. Faccio il lighting designer, direttore della fotografia, sì. Anche solo con il cambio delle luci naturali, senza utilizzare Photoshop, nel momento stesso in cui l'immagine viene ripresa, io riesco a cambiare i connotati della persona che vado a riprendere, quindi l'immagine è sempre falsa, non esiste un'immagine vera. È impossibile dare l'iperrealismo ad un'immagine ripresa, quindi chiedo all'onorevole: cosa dovrei fare? Presentargli il piano luci prima di metterlo in atto per essere sicuro che non riesca a togliere qualche ma luna? Infatti, Emiliano, è una sorta di segno dei tempi che in un momento così travagliato per il nostro paese si alza una mattina l'onorevole Luigi Bobba, dice: voglio la verità nella pubblicità. Per questo io sto provocando la verità nell'immagine, vale per la pubblicità come vale per la vita concreta. Melog, Cronache Meridiane. Tu, giovane donna, questa mattina ti sei svegliata e ti sei sentita subito un cesso? Non sai come fare per diventare una gran gnocca? Da oggi c'è BB Cream, la tua alleata numero uno per la bellezza. Crema SPF, crema idratante, crema colorata, primer per eliminare macchie, pori dilatati e rossori, illuminante della carnagione e, volendo, pulisce, cuce e stira. Pronta per il miracolo? Scusate, ma mi hanno preso in giro, dove sono le donne? Mi hanno detto che a quest'ora era avuto il 3% in più di pubblico femminile rispetto alla media nazionale. Io ancora non ho sentito una voce di donna, non ho visto una telefonata di donna. 800240024, siete voi la mia speranza. Questa mattina parlo dalle vere vittime di questa sorta di burca occidentale che vi viene imposto. Il dovere di essere belle, il dovere di essere stirate, il dovere di essere accettabili, il dovere di essere photoshoppate anche nelle fotine che mettete nel vostro social network, con l'illusione che qualcuno vi raccatti semplicemente per la ragione che avete una foto che rappresenta voi 20 anni fa. Ma non è così, non è esattamente così. Abbiate fiducia di una sorta di antica genia di maschi che ancora apprezza la donna qualcosa che è umbratile, qualcosa che non corrisponde a questa sorta di artificiale ritocco. Nome: Fiordaliso. Età: quella giusta. Segni particolari: cantante. Se ti dico pillola rosa, rispondo di desiderio. Il desiderio che hai o quello che non hai più? Quello che ho ritrovato. Con la pillola rosa ho riscoperto una naturale voglia di fare l'amore. Vantaggi? Di coppia. Controindicazioni? Nessuna. Vi desiderio, la pillola rosa. Ecco, adesso c'è anche la pillola rosa. Fiordaliso, che è una brava cantante, un po' agé, ma non è un suo problema, se nata prima di altri cantanti più recenti, è testimonial della pillola rosa, sarebbe lo stimolatore della sessualità femminile. Ma vi sembra possibile che serva una pillola per farvi ringalluzzire? Non ci vorrebbe qualcosa di diverso? In questi giorni siamo sottoposti a una martellante quanto tediosa campagna che è propedeutica a un incontro che faranno ginecologi e urologi messi insieme, figuriamoci, viene fuori un disastro. Ed è naturalmente infliggerci il fatto che noi italiani abbiamo una media di durata sessuale bassissima, 2 minuti, quando per gli americani il minimo diciamo sindacale sono 5 minuti, dai 5 ai 13 minuti. Quindi questi 3 minuti come potremmo riempirli, come potremmo corroborarli? Beh, semplicemente cercando di attingere anche questa volta una sorta di cosmesi della passione, su supporto artificiale, ricostruzione di ciò che non c'è. Addirittura, guardate, si ricorre in questo campo, nella pubblicità che l'onorevole che abbiamo sentito all'inizio, Luigi Bobba, sta cominciando a fustigare con i suoi sistemi, proibendo Photoshop, giocando su quelli che sono gli antichi e pecorecci doppisensi legati ai prodotti alimentari. Da sempre sono stati ortolani che hanno irretito e molestato le loro clienti facendo doppi sensi su ortaggi, su prodotti della natura. Beh, vi faccio ascoltare quello che è uno spot pubblicitario di una patatina fritta che dovrebbe essere poi rivolta a un pubblico giovanile adolescenziale. Ma oggi 2 centimetri più lungo! 2 centimetri più lungo? Mamma, Andrea oggi 2 centimetri più lungo! Davvero? Sì! Scopa! Mio nipote oggi 2 centimetri più lungo! Brava! Un complimento! Andrea oggi 2 centimetri più lungo! Beato lui! 2 centimetri! Aspita! 2 centimetri più lungo! Tu vai dentro! Andrea oggi 2 centimetri più lungo! Ed eccolo l'esplodere del demone meridiano che era appoggiato molte volte alla funesta invasione del dio Pan, che come sapete è molto legato a questa sorta di miraggio di iperpossenza virile. Non ve la prendete, è semplicemente che vince il concorso chi trova una patatina a 2 centimetri più lungo, ma il copy ha pensato bene di dare alimento a questa illusione che attraverso l'artificio si possa ricostruire quello che la società ha perso. Renzo, buongiorno. Buongiorno. Io volevo portare a conoscenza che l'esperienza che ho avuto io al rinnovo della carta d'identità. Ecco. Sono andato dal fotografo e ho visto che si perdeva del tempo perché i clienti che avevo di fronte consigliavano il fotografo su come ritoccare le proprie foto da poi applicare sulla carta d'identità. Per averla bella, certo, perché quanti anni dura? 5 anni mi sembra la carta d'identità. 10 anni. 10 anni. Sì, in effetti ho una foto io leggermente adolescenziale sulla mia, crea illusioni. E lei quale via ha scelto comunque? Fra la possibilità di avere una foto che comunque la mummificherà per altri 10 anni o una foto reale, concreta, di come adesso, per vedere il progredire del suo disfacimento fisico anche sui documenti? Ma sinceramente lì per lì sono stato incuriosito anch'io e quasi tentato da fare una foto del genere. Poi forse sarà stato la signora che avevo davanti a me, una signora su una 70ina d'anni, agghingata come un albero di Natale. Beh, se te l'ha portato le foto della prima comunione per mettere nella carta d'identità, perché a 70 anni uno può ritoccare quanto vuole. No, invece con ritocco che hanno fatto, incredibile, le rughe in faccia, le famose zampe di gallina, le macchie sulla pelle, ha fatto togliere tutto. Era una cosa impressionante. Beh, secondo lei appaga l'autostima di una persona? Perché l'onorevole lo dice per la pubblicità, ma la pubblicità in realtà non fa altro che invogliarci verso un mondo paradisiaco che non è il nostro, perché noi dobbiamo acquistare dei prodotti, quindi mostra donne eternamente belle, mostra uomini dal volto liscio, dai capelli sempre di quel bel colore corvino, anche se si è passata l'età in cui la natura prodiga questi doni fantastici. Vito, buongiorno. Buongiorno. Sono ancora uomini, ma perché non chiamano le donne, Vito, secondo lei? Non ho idea, vabbè, io sono qui in funzione di tecnico, fra virgolette. Lei che fa a quest'ora? Perché devo capire, io ancora, a quest'ora cosa fa normalmente lei, Vito? Forse sbaglio io. Ho un'attività in proprio e quindi ero uscito per delle commissioni personali. Pausa pranzo? No, per me è tutto un full time, oggi se non fai 4 turni al giorno... No, perfetto, no, mi piace questa gente qui che non mangia e si dedica al lavoro, sono quelli più reattivi. Vito, che fa lei allora? Mi dica con Photoshop. Sono un designer e Bravo. Sono anche un esperto di fotografia e uso Photoshop da sempre, da quando è nato praticamente. E, effettivamente ci vorrebbe quasi un uso etico, fra virgolette, del prodotto, nel senso che nel momento in cui viene hai sotto mano una foto di un ritratto pieno di rughe, eccetera, magari le ma fate scomparire, penso che sia una cosa che poi ti distacca dal soggetto. Io mi rifiuto un po' di farlo. Lo sa Vito qual è il problema? Qua non è che si fa un ritratto per appenderlo al muro e rimane l'icona che noi trasmettiamo di noi stessi alla nostra progenie. Qua si tratta di qualcosa che ci mette nel mercato, soprattutto nell'area dei social network, nell'area della propria immagine. Avere una faccia ben ritoccata significa rimanere più tempo nel mercato. Silvia, la prima donna, proprio a un minuto dalla fine. Silvia. E infatti è proprio per quello che sono intervenuta, perché ero l'unica donna. Ma dove sono secondo lei le sue colleghe a quest'ora, oltre a affettare la cipolla? Non lo so, si crea un po' di conflitto di interessi secondo me con questa trasmissione. Perché? Cosa c'è dall'altra parte? Perché comunque sia la tentazione di, io il Photoshop lo so usare, quindi la tentazione a 39 anni di levarsi le rughe, la cellulite, l'abbiamo sperimentata tutti. Però poi... Ma secondo lei, scusi Silvia, secondo lei gli uomini veramente amano questa levigatezza estrema? Non è l'odore, l'aspetto mordace, l'aspetto passionale, l'aspetto del darsi che un uomo tiene un uomo avvinto a sé? O è questa sorta di confezione esterna? Lei si rifarà quando diventa vecchia? Ma purtroppo per la mia esperienza amano la levigatezza, amano la perfezione plastica. Poi magari sono stata sfortunata io negli incontri, ecco già. Perché lei è molto irregolare nelle zone cellulitiche. No, sono una persona assolutamente normale, una donna di 39 anni con i suoi difetti, che però quando è sistemata qualche testa la fanno girare. E come insomma. Ci si fa a sistemare? Ma bisognerebbe, cosa che io non faccio, va detto. Eh no, devo saperlo. Stare attenti alla linea, stare attenti all'alimentazione. Ecco, perfetto. Silvia, lei ha rotto il ghiaccio. Spero domani telefoneranno altre sue colleghe, perché quello che mi interessa è il punto di vista delle donne. Quello degli uomini mi ha stufato, lo conosco anche troppo bene. A domani.